Da dedicare al nostro compagno ribelle, maestro di sì. del fonico. Vedi? Thank you. grazie. Metti un po' di tastiera del Don in questa spia. Grazie, mitico. Che belli occhiali. Thank you.

ragazze belle. Un abbraccio al collettivo saronnese, ovunque sia disperso. Qui è gemmato un sacco di individualità e collettività incredibili. Thank you. rompiamo il cazzo a tutti, se no. Tanto che si sente uguale, cioè. Un applauso a Cristina che stasera non sta bene, ma non ci sono d'accordo. C'è una holica, vabbè, succede. Non sapete cos'è una holica. Abbiamo siamo un gruppo anarchico, non ci sono i confini, le barriere, questo qua non è un confine invalicabile, se volete. State attenti ai cavi! Collettivo Chaos Punk, dove siete? Scusa pelle, è andata così. avanti o ci fermiamo qua? Thank you. Thank you.